tanaglie dentro un film, comparirai dietro di me, poi sparerai, non è così. Come le radici lente poi tu scaverai dentro e di me, ti ciberai, non è così che crescerai. Non so qual è il tuo volto, come la fragranza di un caffè, mi attirerai verso di te, io ti verrò, non è così, come la malerba attorno a me, ti stringerai sempre di più, poi mi dirai, non è così che tu mi vuoi. Dove ti respiro non so, forse tra i capelli del pianto, forse nei miei giorni grigi del mio stare incerto, senza alcun rumore. Non so qual è il tuo volto,